più allegro di quei 7 anni al Quirinale, quello della vittoria dell'Italia ai Mondiali di Spagna il 12 luglio dell'82. E per i giocatori come Dino Zoff la pressione aumenta. Sì, sì, lo sapevamo che arrivava, quindi la pressione e la responsabilità era naturalmente aumentata. Noi abbiamo avuto la possibilità di stare con lui in aereo e di conseguenza abbiamo anche fatto una partita a carte a Scopone. Io e il presidente Causio e Berzot, per noi non è andata molto bene. A dire la verità lui mi ha ripreso, però dovevo essere io a riprendere lui, però per rispetto del ruolo non ho detto niente, anche se alcuni mesi dopo che abbiamo avuto la possibilità di rincontrarci mi ha detto: guarda Zoff, ho sbagliato io. Sì presidente, lo so, però capisce, non potevo riprenderla in pubblico. Che questa carta dovevi giocarla o dovevo farla? Ecco, quindi Pertini era in tutte le sue espressioni carico di è diretto e sanguigno. Ecco. Ha giocato male Berzo, non Berzo, lo faceva lui il 7. Lui non si è ricordato in fondo che l'ultimo asso, non so voi se è giocato a Scopone, c'era l'ultimo asso, lui invece non si è ricordato e ha ballato invece di prendere la carta vicina. Ecco, questo errore ci è costato la partita. Muore a Roma il 24 febbraio del 1990 il partigiano Pert, Alessandro, per tutti, il presidente Sandro Pertini. Qui non c'entra la politica, qui c'entra la solidarietà umana. Perché credetemi, il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi. Giancarlo De Cataldo, magistrato, drammaturgo, sceneggiatore, autore del libro Il combattente, come si diventa Sandro Pertini. Ecco, ma come si diventa Sandro Pertini? Beh, si diventa Sandro Pertini, Sandro Pertini ce n'è uno solo. È stato unico e irripetibile, ha appartenuto a una generazione che si è formata durante la Prima Guerra Mondiale, che ha conosciuto il socialismo, che ha combattuto contro la dittatura, che ha vissuto la galera, che ha fatto la resistenza, che ha fondato la Prima Repubblica. Sandro Pertini in particolare non è mai stato niente di più e niente di diverso che un socialista combattente. Ecco, ma allora perché questo libro? Io vengo da una famiglia socialista. Quando ero bambino sentivo parlare i miei zii di una entità unitaria, i socialisti, la sinistra, erano il comunismo senza i lager e senza la dittatura, quindi senza i russi, senza Stalin, l'idea di un riscatto, i miei erano di famiglia contadina, meridionale, venivano dalla Puglia, e Pertini era accomunato insieme a Turati, a Saragat, a Nenni, a Giolitti, in una sorta di pantheon di persone per bene a cui non permettevano i cattivi di mettere le cose a posto, per cui per me Pertini è come una figura dell'infanzia, una specie di mago che ho voluto poi ricostruire nel tempo raccontandolo anche un po' a mio figlio. Ma lei dice che più di ogni altra cosa bisogna chiamare Pertini socialista, perché? Perché Pertini è stato per tutta la vita un socialista, intendendo con il socialismo un'aspirazione a coniugare l'eguaglianza, i diritti sociali, il progresso delle classi lavoratrici e la libertà. Ma quali erano i veri rapporti tra Craxi e Pertini? Beh, se voi leggete i diari di Maccanico, che sono stati pubblicati dopo, sono stati resi pubblici dopo che avevo già finito di leggere, di scrivere questo libro su Pertini, purtroppo, perché altrimenti sarei avvalso, avrei saccheggiato i diari di Maccanico, vi renderete conto che i rapporti non erano propriamente idilliaci, per usare un eufemismo, ma qualcosa trapelava anche dagli atti precedenti. E come mai si odiavano un po'? Io penso che più che odiarsi appartenessero a due visioni diametralmente opposte e del tutto inconciliabili del socialismo. Cioè, su cos'era lo scontro? Ma lo scontro fondamentalmente era sul concetto stesso di socialismo. Pertini apparteneva a un'epoca in cui il socialismo era progresso, promozione sociale, sindacato, cultura, lavoro. Craxi doveva apparirgli come un politico brutale, cinico, del quale pure condivideva questo motto degnano della politique d'abord, cioè che intanto bisognasse trovare la soluzione politica a ogni problematica. Ma insomma erano uomini profondamente diversi per stile, temperamento. Non a caso la grande maggioranza degli eredi di Craxi poi sono transitati a destra. E Pertini non l'avrebbe mai fatto? Ma penso proprio che tra le pochissime certezze che ci accompagnano sul nostro passato sia il fatto che Pertini nel 1990 muore a 94 anni, ancora più socialista, ancora più convinto di quando era un ragazzino che studiava alle scuole di Savona e di Genova e dal suo maestro Adelchi Baratono imparava i rudimenti del socialismo. Tra i tanti episodi che lei ha raccontato nel suo libro su Pertini, qual è che l'ha colpita di più? Io sono rimasto profondamente colpito da un episodio che riguarda Pertini al confino. Hanno un cane che è adottato da tutti i confinati erano guardati a vista dalla sbirraglia, diciamo, dalla milizia fascista, e a un certo punto per dispetto, per crudeltà, gli ammazzano questo cane. Io credo che lì veramente questo rapporto tra i confinati, che erano poco meno che prigionieri, e questo animale abbia rivelato, il cane Titì si chiamava, abbia rivelato anche degli aspetti di un'umanità che Pertini, da ligure, scontroso e burbero, e anche dotato, o se volete affetto, da un caratteraccio leggendario, teneva profondamente nascosto. Ma lui era molto popolare, lo abbiamo raccontato, ma era anche un po' vanitoso? Io non credo che sia mai esistito un uomo di potere. Pertini lo fu perlomeno alla fine della sua esistenza, che non sia venuto a patti con il proprio narcisismo. Quindi credo che Pertini sia stato anche abile a costruire una propria leggenda, la leggenda del presidente burbero, del nonno con la pipa, amato da tutti gli italiani. Ma dentro questa leggenda c'era una parte indiscutibile di verità, cioè la capacità di Pertini di risollevare le sorti di una classe politica assolutamente delegittimata e deprezzata e di diventarne l'emblema più rappresentativo. Ma alla fine ci sarà un film su Sandro Pertini o no? Dubito fortemente, ma forse un documentario ci si potrebbe arrivare a farlo. E che cosa deve arrivare? Che cosa deve spiegare questo documentario alle future generazioni? Intanto una storia umana, irripetibile, l'ho detto, unica, e poi forse riuscirà a comunicare un pizzico di nostalgia, e magari dalla nostalgia nascerà un po' di interesse, e forse dall'interesse anche persino un insegnamento. Grazie Giancarlo De Cataldo. Grazie a voi.